111. Crostini di fegatini di pollo con la salvia. Fate un battutino con pochissima cipolla e prosciutto grasso e magro. Mettetelo al fuoco con un pezzetto di burro e quando sarà ben rosolato, gettateci i fegatini tritati fini insieme con delle foglie di salvia. 4-5 per 3 fegatini potranno bastare. Conditeli con sale e pepe e tirato che abbiano l'umido, aggiungete un altro poco di burro e legateli con un cucchiaino di farina, poi bagnateli col brodo per cuocerli, ma prima di ritirarli dal fuoco versateci 3 o 4 cucchiaini di parmigiano grattato e assaggiateli se stanno bene di condimento. I crostini formateli di midolla di pane raffermo, grossi poco meno di 1 centimetro, e spalmateli generosamente da una sola parte col composto, quando non sarà più a bollore. Dopo diverse ore, allorché sarete per servirli o soli o per contorno all'arrosto, frullate un uovo misto a un gocciolo d'acqua e prendendo i crostini a uno, fate loro toccare la farina dalla sola parte del composto, poi immergeteli nell'uovo e buttateli in padella dalla parte del composto medesimo.